Questa parabola, propria di San Matteo, è tratta dagli usi seguiti dagli ebrei nella celebrazione delle nozze. La cerimonia principale del matrimonio consisteva nel corteo che accompagnava la sposa dalla casa dei suoi parenti a quella dello sposo. Si aspettava d'ordinario la sera tardi e allora lo sposo, con i suoi amici, si recava a casa della sposa, che, circondata dalle sue amiche, le 10 vergini della parabola, lo aspettava in ricco abbigliamento con un velo e una corona sul capo. Al chiarore delle lampade portate dagli amici dello sposo e dalle amiche della sposa, in mezzo a suoni e canti di allegria, la sposa veniva solennemente condotta alla casa dello sposo. Quivi giunti ed entrati tutti coloro che avevano preso parte al corteo, si chiudevano le porte e si dava principio a un sontuoso convitto. Allora sarà simile, eccetera, eccetera. Quando Gesù starà per venire a giudicare, avverrà nella Chiesa come avvenne a 10 vergini, cioè a 10 giovani destinate ad accompagnare la sposa alla casa dello sposo. Il numero di 10 vergini rappresenta l'universalità dei cristiani. Le lampade significano la fede. Andarono incontro alla sposa e allo sposo. Nel greco mancano le parole alla sposa. Lo sposo è Gesù Cristo che viene a celebrare le nozze con la Chiesa. Versetto 3. Non portarono con loro l'olio. Le antiche lampade erano piccoli vasi di creta, nei quali era necessario rinnovare spesso l'olio durante una lunga veglia. Le vergini prudenti, in previsione di un ritardo dello sposo, oltre all'aver ben fornite le loro lampade, portarono ancora con loro un vaso di olio, mentre le stolte non se ne curarono. L'olio rappresenta la carità e le opere buone che devono sempre accompagnare la fede. Versetto 5. Tornando lo sposo. Il tempo di questo ritardo è quello che è concesso a ciascuno per far penitenza e meritarsi la vita eterna. Assonnarono tutte e si addormentarono, cioè, spiega Maldonato, non pensarono più alla prossima venuta dello sposo, il quale però arrivò quando meno se l'aspettavano. Versetto 6. Si levò un grido. Ecco, quando meno si aspetterà, si udirà il suono delle trombe dell'angelo che chiamerà tutti al giudizio. Versetto 7. Misero in ordine le loro lampade affinché mandassero più viva luce. Dateci del vostro olio, eccetera. Si accorsero allora di aver dimenticato l'olio, ma troppo tardi. Questi due versetti sono di solo ornamento alla parabola, poiché nel giorno del giudizio gli empi non domanderanno certamente agli eletti l'olio delle opere buone. In quel giudizio la stessa buona coscienza diffiderà di se stessa, il che viene espresso, secondo Sant'Agostino, nelle parole: perché non ne manchi a noi e a voi. Andate piuttosto, eccetera. Amara ironia. Allora non sarà più tempo di andare a comprare, ma ognuno avrà premio o castigo secondo le opere fatte e non potrà invocare l'aiuto degli altri. Versetto 10. Fu chiusa la porta. Le vergini stolte arrivarono quando il corteo che aveva accompagnato la sposa alla casa dello sposo era già entrato nella sala del convitto e già erano state chiuse le porte. Il convitto nuziale significa la gloria del cielo, che viene appunto chiamata convitto nuziale dell'angelo, anche nell'Apocalisse, capitolo 9, paragrafo 9, e sarà data solo a coloro che avranno avuto fede e carità. Versetto 11. Signore, Signore, eccetera. Viva espressione di dolore, tardivo e ormai inutile. Versetto 12. Non so chi siate, non vi riconosco per mie, non vedendo in voi l'immagine di Gesù Cristo. Versetto 13. Vegliate dunque. L'incertezza del momento in cui verrà Gesù Cristo per il giudizio deve essere uno stimolo a star sempre preparati per mezzo della fede e della carità, come gli fu osservato l'esortazione alla vigilanza a motivo della venuta gloriosa di Gesù. Si deve estendere anche alla sua venuta per il giudizio particolare, il momento del quale è pure incerto.